voglio Higuain in campo tutte e sette le partite che mancano. Quante ne mancano? Sette. Lo voglio in campo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. No look per Serna, cross forte teso, Kovalenko, terzo gol dello Shakhtar, Viktor Kovalenko, e partita chiusa al vivo, 3-0. Astronavi in fiamme al largo dei bastioni di Orione. Il fischio di Scomina, Gameiro, il Siviglia è in semifinale di Europa League, ai calci di rigore, vince il derby spagnolo contro l'Athletic Bilbao. Centro Suarez, attenzione a Castillejo, col sinistro zittisce il Letnai, probabilmente manda il Villarreal ufficialmente, definitivamente in semifinale. Immenso, attaccato da Wendy, decide di lasciarlo sul posto, se lo porta a spasso per il campo e dà una grande palla a Royce. Marco Royce, 3-1, il punto esclamativo sulla gara. Calcio d'angolo con Staric che la prolunga, 3-3, il Mischia Sacco, Mamadou Sacco, 3-3, il calcio è strano, Pepe, il calcio è strano. Staric la butta dentro per Milner, prova ad arrivare, colpo di testa, 4-3, 9, incredibile, incredibile, 4-3, 9, al 92, incredibile. Thanks God it's Friday, dicono in Inghilterra, forse anche in America, però una settimana piena di trasferte e di emozioni tra Vinita, l'Immobili, che si conclude qui con questa impresa leggendaria del Liverpool. E come sapete bene, soprattutto i tifosi milanisti sanno bene, non è certo la prima. 800 24 00 24, c'è Giovanni Capuano qui con me. Ciao, ciao. Finita la partita del Liverpool? No, continua, continuerà, va avanti, perché queste partite non finiscono. Hai visto mai visto che bella la copertina del Sun? Sì, Istanbul sì. Secondo. Dove... cioè, bella dipende per piacerà, chi, appunto, però bella dipende dai gusti. Ciao Pierluigi, come va? Sì, ci siamo divertiti, dai, settimana, molto, una spremuta molto di emozioni in settimana. Molto, molto, un po' si rosica sempre, perché poi perché poi secondo me la Juve era in condizione di poter essere fra le prime quattro d'Europa alla luce di quello che si è visto. Il Napoli, almeno il Napoli secondo me era assolutamente nelle condizioni di poter andare avanti in Europa League, però questo non è successo, quindi è inutile, anzi vado a prevenire il commento di qualcuno che sarà già arrivando. Non è successo, e siccome il campo ha sempre ragione, va benissimo. Però insomma... oggi Tutto Sport aveva un titolo meraviglioso, cioè la Coppa dei Campioni era diventata la Coppa Rimpiantoni, a proposito di quello che avrebbe potuto fare la Juve. C'è anche un clamoroso 4-3 nella storia, un Liverpool Newcastle del 96, sì, se non sbaglio. Sì, sì. Ma ricordo, se non ricordo male, anche una finale di Coppa UEFA con il Liverpool protagonista, con la Alavés, di una partita leggendaria. 5-4, questo ce l'ha nell'anima. Intanto oggi sorteggione in sala mensa. Glielo leggi tu? Cosa? L'SMS dell'amico da casa. Sì, questo è il sequel di ieri. Buongiorno, oramai sto diventando un fan del pendolino di Pardo, che suona bene, ma forse a questo punto lo chiamerai il pendolone di Pardo. Avevo previsto semifinale. Pendolone non è male, eh? Pendolone non è male, si presta a varie interpretazioni. Amici e amiche all'ascolto, il pendolone. È arrivato il pendolone di Pardo. Aveva previsto in semifinale Atletico Madrid Real Madrid. A questo punto chiedo una doppia per Inter Napoli, la doppia, così lo aiutiamo. Grazie, sempre Antonio da Bari, ma non sono Cassano, tranquilli. Lo spirito non farlo tornare. Lo salutiamo, lo abbracciamo. Insomma, allora, sorteggione in sala mensa, per chi non lo sapesse. Sono il divino, Sei il divino. Il sorteggione in sala mensa ha detto invece ciolismo contro tiki-taka, cioè Atletico Madrid contro Bayern Monaco. Ciolismo contro guardiolismo. Ciolismo contro tiki-taka, diciamo. Dopo tiki-taka. Ok, quindi autobus parcheggiato davanti alla porta del Bayern, e poi City-Real Madrid con Beh, anche qui mille temi, con Zidane che può arrivare alla finale a Milano, con Zidane che stava per uscire, che stava per perdere la panchina, che invece adesso potrebbe ritrovarla. Poi in Europa League invece continua lo stellone del Siviglia, gran culo anche ieri perché ha giocato, secondo me meritava di uscire, poi sarò condizionato perché non ne posso più di vederlo in finale di Europa League. Meritava di uscire contro l'Atletico Bilbao, poi rigori ed è finita, come sapete. Non hanno sbagliato mai contro un errore dei baschi. Giocherà in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk, quindi è facile pronosticare un'altra finale con il Siviglia protagonista. E poi Villarreal contro il Liverpool, che ieri si è inventato questa ennesima clamorosa impresa e mi ha fatto impazzire vedere Klopp esultare come un bambino di fronte alla sua ex squadra, ma poi è andato sotto la curva dei tifosi del Borussia Dortmund a ringraziarli, ad applaudire, applausi ricambiati, insomma buoni sentimenti nel finale. Di tutto questo torniamo a parlare tra pochissimo dopo il traffico. 800 24 00 24 per intervenire. Tutti convocati. Convocati. Beh, ieri sera come non mai, questo coro storico, You Never Walk Alone, cantato dalla tifoseria del Liverpool, come si conviene in tutte le grandissime occasioni. Giovanni Capuano qui con me, Pierluigi Paro dal telefono. Andrea Dossena, cosa si prova ad essere in campo quando si canta quando ti senti cantare addosso quell'inno? Beh, buongiorno a tutti. Ciao Andrea, grazie. Ciao Andrea. Soprattutto quando lo cantano a fine partita, che quindi l'adrenalina ti scende, la partita, perché poi quando è così, perché hai vinto, comunque hai fatto una grande prestazione, è una roba da veramente da pelle d'oca, che te la porti dentro per anni. Sì. È un'emozione fortissima. Poi a me è capitato due o tre occasioni di vincere proprio in queste situazioni, che magari di ribaltare negli ultimi minuti il risultato, perché comunque sembra che il Liverpool ce l'abbia nel DNA questa cosa, e i tifosi veramente esplodono, sono attaccati a te, vorrebbero, e ti viene voglia di cantarla, perché comunque è il ritornello, ovunque vai te lo trovi sempre, ti accompagna sempre. Andrea Dossena, come sapete, ha giocato oltre che nell'Udinese, nel Napoli, nella breve parentesi nel Palermo, nel Sunderland, eccetera, anche nel Liverpool, come ben ricordate. Ma cosa insegnano a Liverpool per fare ste rimonte? C'è la bacchetta magica da qualche parte? Non c'è la bacchetta magica, però ieri sera, guardando la partita, a me ha fatto impazzire nel primo tempo Mister Klopp, che sì, era secondo me ancora l'unico. L'unico che della squadra, sto parlando della squadra, che però sembrava con l'allenatore, il progetto misterai, pragmatico nel correggere la formazione, nel fare il cambio, e il tifoso sfegatato che incitava e che ci credeva. Infatti anche dopo nel dopo partita i giocatori tutti, la prima cosa che è successa è il mister negli spogliatoi ci ha spronato, ci ha detto che dovevamo, secondo me il gran merito va a lui, perché comunque sulla carta è anche sul campo, secondo me il Borussia ha dimostrato di essere superiore nei 90 minuti. Alla fine ha messo il cuore in campo, poi logicamente il calcio è fatto di episodi, si sa che in Inghilterra per fisicità e tutto i calci piazzati contano molto, cioè un aspetto quasi fondamentale, e infatti se un calcio piazzato e l'ultimo gol sempre comunque da un difensore centrale che è andato a saltare è rimasto lì, ha fatto gol, sono riuscito a portare a casa questa partita. Però valutandola dopo con a sangue freddo, dici nel primo tempo il Borussia poteva andare comodamente su 4-0. Sì, questo è vero. C'è chi dice, ho sentito ieri sera Costa Curta dopo partita a dire che in fondo Klopp ha portato finora solo mentalità, non grandi cambiamenti tecnico tattici e calcistici giustissimo, ma perché, anche perché secondo me non ha ancora, cioè, non è ancora la sua squadra, non è ancora la sua squadra, è arrivato lì, ha dato il suo carattere, la sua mentalità probabilmente, però secondo me sì, in estate ci sarà una grande rivoluzione, infatti vorrò vedere, sarò molto curioso di vedere nei prossimi 2-3 anni il Liverpool di Klopp. Cosa dice il pendolone di Pardo? Vince, vince la Champions League, la Champions League, Europa League, no, il Liverpool? Secondo me è favorito il Villarreal, non vorrei rovinare l'entusiasmo. Davvero? Però, no, però, anch'io, io parlando ieri sera ho detto squadra solida e con ottima qualità, mi piace, penso, anche a me tantissimo. Penso che sia 60-40 a favore del Villarreal la semifinale. Quindi sì, visto il mio pendolone, diciamo che il Liverpool è già in finale. Detto questo, Dossera ha fatto, lo ricordiamo se non sbaglio, 2 gol in carriera, giusto, con Liverpool, ma, sì, ma non banali, uno contro il Manchester a Old Trafford 4-1 e l'altro con Real Madrid in casa 4-0. No, a me quello che ha colpito, Andrea, è, ieri sera è il tipo di tifo, a costo di essere retorici, però è così, insomma, tu vedi della gente che canta, che fa le sciarpate, che urla come dei pazzi e che, insomma, non è che passa la propria partita a fare gestacce agli avversari o devi morire, no, roba del genere. C'è la cosa bellissima, secondo me, di ieri sera, un'altra cosa, che era la commemorazione delle 96 vittime di Highbury e come vivono il minuto di silenzio, e quello capisci, cioè capisci molto dalla loro cultura. Capisci che io ho fatto lì, che erano i 20 anni della tragedia, e siamo andati allo stadio, sì, il 15 siamo andati allo stadio perché era il 2009, siamo andati allo stadio e ci hanno detto guardate, verrà, sì, ci saranno qualche tifosi della Coop, perché quest'anno sono proprio 20 anni, sono arrivati 35.000 persone in silenzio assoluto per tutta la cerimonia, dove c'erano dei bambini con un coro che cantava, e mia moglie era in strada per Liverpool, mi fa Andrea, ero in giro alle 3, si sono fermate le persone sui marciapiedi, si sono fermati immobili per un minuto, le campane che suonavano, loro sono così, poi parte la partita e la vivono con te, poi finisce la partita, io non ho mai, l'ultimo, il secondo anno non andavamo bene con Benitez, poi non ho mai sentito un fischio venire fuori da Liverpool, dalla finiva e non, magari non c'erano gli applausi e tutto, però non sì, non c'era nessuno, no, che ti veniva ad aspettare fuori dallo stadio, ma, o vabbè, sotto quello casa. Proprio, quello proprio non è nella loro mentalità. Però, ma neanche andare a fischiare la maglia, penso che è qualcosa di sacro. Ma proprio per questo, secondo me, a me Klopp ieri ha ricordato molto Simeone in tutta la sua carriera e anche soprattutto l'altra sera contro il Barcellona, cioè quegli allenatori che vivono da 12° giocatore in campo la partita della loro squadra, la spingono anche fisicamente, cioè c'è una partecipazione. Però io non so, ad esempio, visto che si parla tanto di Simeone, di un futuro all'Inter, io non so se potrebbero ricreare la stessa magia in un ambiente diverso, perché quello stadio, quella gente, così come il Vicente Calderon, sono sì, particolari. Cioè sono Klopp dei santuari dove Klopp si trova nel posto ideale, proprio si sono sposati in modo perfetto. Ma anche Dortmund era uguale, è una cosa particolare, a Dortmund squadra retrocessa andavano in 85.000. Sì, però anche Dortmund è un stadio molto caldo. Appunto. Sì, no, le due piazze, ma comunque stessa cosa per il Cholo Simeone a Madrid, il Real molto più freddo, mentre invece lo stadio caldo, il Calderon, e lui si ritrova lì e forse riescono anche a trasmettere questo alle squadre, perché c'è questa sinergia tra allenatore, stadio e che di conseguenza anche squadra. Senti, ciolismo contro guardiolismo in semifinale di Champions League, da che parte stai? Lo chiedo a Andrea Dossera ma anche a Pardo. Secondo me la finale è City Atletico Madrid e vince il City. È contro tendenza totale. Fantastico, totale. Fantastico. E vince il City. Vince il City che è stato preso a sculacciate dalla Juventus, è stato spernacchiato, sì, diverse volte in stagione, Pellegrini ovviamente già esautorato perché arriva a Guardiola. Il paradosso è che rischia di arrivare in finale il peggior Real Madrid degli ultimi anni. Il paradosso è che rischia di arrivare in finale il peggior Real Madrid degli ultimi anni. Tu come la vedi, però, Pier? Io ormai col pendolone, pendolone cosa dici? Non vedo più niente. Penso che soprattutto se dovessi fare la telecronaca, insomma, l'Atletico Madrid è quello che diceva Andrea, è uno stadio tra l'altro diciamo, l'ho detto anche in telecronaca l'altro giorno, compriamo il campo per chi non ci fosse mai stato, è uno stadio antico, uno stadio anche abbastanza fatiscente, però è uno stadio di un calore incredibile. E devo dire che ti trascina, trascina la squadra, trascina tutti, poi Simeone in questo tipo di ruolo ci si trova benissimo. Io penso che il Bayern sia favorito, ma che dovrà sudare tantissimo. E nell'altra? E nell'altra secondo me c'è più equilibrio. Il Real Madrid sì, riescono a caricarsi quelli del City, per il Real Madrid non sarà affatto facile, perché... Sì, non sarà facile, anche perché quando arrivi a queste partite conta molto anche il colpo di classe, il colpo del singolo giocatore, e anche il City non ne ha pochi di giocatori, mi viene in mente ovviamente De Bruyne. E poi c'è questa cosa, Carlo, che oggi ha ricordato ad esempio Butragueño, che nelle ultime 6 semifinali, quelle appunto consecutive del Real Madrid, 3 volte il Real ha giocato in trasferta la seconda partita, che noi siamo abituati a considerare un po' pigramente per convenzione un vantaggio, e in realtà nelle 3 circostanze in cui ha giocato il ritorno in casa è sempre uscito. È uscito contro la Juventus lo scorso anno, è uscito contro il Dortmund, è uscito contro il Bayern, quindi non è detto che sia un così grande vantaggio, lo diventa se il Real Madrid farà in casa del City una partita nettamente migliore rispetto a quella che ha giocato in casa del Wolfsburg nei quarti. Sì, Andrea, per finire, come va in Svizzera? No, bene, una bellissima esperienza. Ho scoperto una nuova nazione, ma ci sono anche delle gran belle realtà, soprattutto parlando di Super League. Il Chiasso, noi ci stiamo cercando di lottare per arrivare a una salvezza tranquilla, perché qua comunque mancano ancora 9 giornate, e diciamo che sono contento, la famiglia sta bene, viviamo sul lago di Como, quindi è stata una scelta azzeccata. Grazie Andrea! Bocca al lupo, un abbraccio, Andrea Dossena. Ragazzi, ci fermiamo per il traffico, torniamo subito, poi parleremo, no, per il traffico, ovviamente per la borsa, sono le 14:28 e 33 secondi per la precisione, e poi arriverà il professor Belinazzo. Ovviamente continueremo a parlare di notti, di Champions, di Eurolega, di Europa League, di tutto quello che volete, 800 24 00 24, ma arriverà Marco Belinazzo dal piano di sopra, che ci racconterà come Milan e Inter stanno passando ai cinesi. Bene, molto bene. Il Trap apprezza, lo sentite? Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta... Si ricomincia! Convocati. Ovviamente, caro Pendrone Pardo, c'è chi la sa sempre più lunga, come Luca che scrive: ma credete ancora nei sorteggi? Sono tutti strapilotati, sveglia, cercano una finale Real Bayern. Deki Stankovic aveva le palline calde, quelle fredde oggi. Si è visto, si è ascoltato per dito. No, fra l'altro una delle palle possibili era, volendo essere complottisti, che cercassero di evitare una finale tutta spagnola, no? Che era una vecchia teoria, ce ne fossero due, quello avrebbe portato a un derby spagnolo, invece no. Ma che se devo dire? Cioè, sai, i sorteggi per gli ottavi, che sono stati assolutamente il contrario di quello che il UEFA teoricamente avrebbe voluto. Certo. Nel senso che hanno messo insieme tutte le partite che cambia, in grandi state sulle. I sorteggi dei quarti sono stati di contro, invece sorteggi che sembravano un tabellone tennistico, anche se poi l'Atletico ha eliminato il Barcellona, per cui insomma... Barcellona che è chiaramente favorito dall'UEFA, portato in palmo dall'UEFA, come dicono tutti. Però gli è andata male, come dicono tutti, tranne... non l'hanno detto a Rizzoli, si sono dimenticati di dirlo a Rizzoli. Di dargli quel calcio di rigore. No, la cosa carina, ti ricordi sicuramente, Pier, no? Il discorso di Rummenigge dopo Bayern Monaco Juventus. Noi dobbiamo parlarne con la UEFA, perché non è possibile che passi una tra PSV e Atletico Madrid e invece la Juve sia già a casa. Ecco, adesso questa roba qui avrà modo di discuterla direttamente con Simeone nella semifinale. Tra Bayern e Atletico Madrid. Ciao Marco Belinazzo. Se fosse Herrera, Simeone l'attaccherebbe, credo, in spogliatoio. Credo anch'io. Buon pomeriggio. Come stai? Bene. Bene, i cinesi come stanno? I cinesi sono tanti. Milioni frontiere. Di milioni? tanti cinesi alle frontiere, come nel deserto dei Tartari di Buzzati. Allora, stiamo attendendo e guardando. Enzo da Roma e Nicola, state lì che adesso Marco Bellinazzo ci dice, ci racconta come Inter e Milan stanno per finire in mani cinesi. Beh, diciamo che lo stiamo raccontando da qualche anno, quando ne ho scritto l'anno scorso in Goal Economy di questa avanzata dei cinesi. Sembrava un po' un folle, insomma, che guardava appunto oltre il confine del deserto dei Tartari, e invece i cinesi sono qui. L'altro giorno hanno fatto questo piano pluriennale, dovranno formare 50 milioni di calciatori. Stanno investendo tantissimo sul calcio. Una piazza come l'Italia, in particolare una piazza come Milano, chiaramente è ambitissima, anche perché di fronte hai due proprietà che sono tendenzialmente interessate più a vendere che a mantenere. Allora, le stesse. Distinguiamo le due situazioni. Cosa succede all'Inter? L'Inter abbiamo una situazione molto complessa e molto fluida, in cui c'è una persona, Massimo Moratti, che non vorrebbe restare con il cerino in mano, nel senso che Goldman Sachs stava cercando acquirenti, altri ne ha trovati direttamente Tohir, tutti provenienti dalla Cina, interessati ad acquistare la maggioranza del club o una quota comunque che gli permetta di avere voce in capitolo, come è logico che sia. Si sta discutendo anche chiaramente di una vendita totalitaria del pacchetto di Tohir, e a quel punto Moratti non vorrebbe trovarsi nelle condizioni di essere socio di minoranza di un soggetto che tra l'altro non si è scelto, per cui al di là della facciata, al di là delle dichiarazioni di piena sintonia, c'è una situazione di forte fibrillazione con lo scenario e la prossima stagione, la fine di questa e la prossima, per affinché sia come dire, messo tutto in regola, ed è difficile con la UEFA per quanto riguarda il fair play finanziario, e si possa come dire, definire l'assetto azionario, e si possa poi anche definire quello che è la rosa e il progetto Mancini, se progetto Mancini sarà. Certo. Allora, tra poco invece la situazione del Milan. Enzo, buongiorno. Enzo? Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dica. Ieri ho avuto occasione di seguire su Telenorda, sì, una televisione diffusa specialmente in Puglia, ma si può vedere sulla pubblicità terrestre, pur essendo a Roma, la conferenza stampa dell'acquirente, almeno di una quota parte della squadra di calcio del Bari. Sì, Dato Nordin, il malese Nordin, sì. Dunque, io ricordo Dato, che è più semplice come nome, comunque Mister Dato. Devo dire che mi ha molto colpito, perché ha posto al centro del suo progetto la realizzazione di una struttura dedicata ai giovani, un'accademia. Sì. Quindi campi di calcio, foresterie, ristoranti, strutture mediche, con l'obiettivo di valorizzare i giovani, assicurare un punto di riferimento, quindi grande valore sociale, come sappiamo, dello sport, con la convinzione che lavorando bene si possa anche trovare. Certo, anche detto in 5 anni vogliamo la Champions League, l'anno prossimo Cassano torna. No, questo forse non l'ha detto Pardo. No, non l'ha detto, però però lo pensa, però pensa. Mi sembra scontato, no? No, pari, è nel mio cuore. No, non lo so, non l'ha detto, la vittoria della Serie di Cassano, mi pare di no. Vabbè, andiamo avanti. Però tanto movimento, voglio dire, tanto movimento intorno ai club italiani. Ma guarda che poi noi, anche la Triestina, ragazzo, che è stata che è passata di mano e potrebbe risorgere con Milanese, giocatore che a Milano si conosce. Bellinazzo adesso confermerà oppure dissentirà. Io penso che oggi calcio italiano sia in tanti casi un'azione che si può comprare a basso costo, nel senso che noi abbiamo una forza straordinaria, che è quello che ci rimane, che in certi casi è la tradizione. Nel caso di Inter e Milan oggi c'era questa immagine molto bella e anche un po' malinconica, visto i risultati del 2000esi, del sindaco di Milano che ha con orgoglio rivendicato, insomma, la sede della finale, invitando tutti lì. È chiaro che Milan e Inter hanno una storia di un certo tipo, straordinaria, da top club in giro per il mondo. Roma e Napoli sono due realtà, soprattutto il Napoli come numero di tifosi, ma anche la Roma particolarmente calde. La Roma ha un marchio che è Roma, eterna. Napoli ha milioni di tifosi sparsi per il mondo, di gente che è partita magari tanti anni fa e che vive in Nord Europa o in Nord America. Anche il Palermo, a Zamparini piacendo, potrebbe avere un grande mercato. Ci sono sinergie, tu pensa al discorso che era stato fatto qualche anno fa a proposito del Cagliari, ci possono essere delle sinergie di carattere turistico, ci sono città uniche, cioè, voglio dire, qualcosa sappiamo. Poi abbiamo dei problemi di struttura enormi, dei problemi di organizzazione del sistema, di stadi fatiscenti e vecchi. Però ecco, Bari è una piazza, tanto per fare un esempio, che quando le cose vanno bene risponde con 30-40 mila persone senza nessun problema, quindi può stare benissimo da parte di un investitore straniero la voglia di venirci. Sì. Mi pare che il contesto competitivo, economico e sociale non sia ideale, però sicuramente chi viene a comprare adesso compra sconto, compra a prezzi bassi. Vero Marco? Assolutamente sì, ed è quello che un imprenditore malese come Dato Nordin ha fatto, per il momento prendendo il 50% del club, ma credo che in breve tempo poi acquisirà il controllo completo. Ci troviamo di fronte a piazze che hanno grande tradizione, grande pubblico, costano poco perché tutto sommato con una quindicina di milioni Dato Nordin potrebbe avere l'intero pacchetto del Bari. E il mio grande dubbio, l'amarezza che ho è il fatto che non ci siano, come dire, imprenditori italiani capaci di vedere in questi progetti dei progetti industriali anche redditizi. Non che sia sbagliato, cioè la Premier è una realtà in cui la maggioranza dei club è in mano a soggetti stranieri, però appunto ho questo malessere di fondo rispetto a tanti imprenditori italiani che non vedono nel calcio un asset industriale che invece si può sviluppare in maniera redditizia. Magari la ragione ci sarà anche. Prova, cioè gli imprenditori conoscono dove operano. Ma anche perché Toira è entrato nel 2013 e il suo piano sull'Inter al momento non è certamente riuscito, non dal punto di vista finanziario, quello sportivo vedremo. Pallotta resta comunque appeso ai ricavi della Champions, è in rosso, pesante, con i ricavi sta in equilibrio dello stadio, ne parliamo un'altra volta. Cioè anche gli stranieri che sono arrivati in realtà anche nelle grandi piazze non hanno avuto successo. Chiederci se sono arrivati, come dire, gli stranieri giusti nel senso che non sono arrivati quelli che hanno investito a Parigi o a Manchester o in altre realtà e hanno tentato di fare un effetto leva finanziario, cioè investendo pochissimo e cercando di far leva sul blasone delle squadre per fare affari. Questo a basso costo con un potenziale ottimo ritorno di immagine. Fermiamoci un attimo per il traffico, poi continuiamo a parlarne. Tutti convocati. Convocati. Sempre Pierluigi Pardo al telefono, Giovanni Capuano e Marco Bellinazzo qui con me. Prima del Milan, Nicola, buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione, grazie per la convocazione. Grazie. Volevo fare un paio di considerazioni se possibile, uno sulla finale di Champions League e l'altro sugli arbitraggi di Rizzoli. Sì. La prima, per quanto riguarda la finale, secondo me sarà un derby spagnolo Real Atletico Madrid. Vedo il ciolismo battere anche a fatica il tiki-taka di Guardiola, mentre secondo me non ci sarà partita tra Real e Manchester City. Poi in finale Real, il peggior Real degli ultimi anni, riuscirà a vincere, perché poi è la bestia nera in Champions dell'Atletico Madrid, vedesi questi ultimi due anni. E questo sicuramente aumenta i rimpianti della Juve, perché poteva essere la Juve stessa a giocarsi la semifinale con il Real. E io credo non tanto per la partita col Siviglia, visto l'attuale Siviglia ancora in semifinale di Europa League. Chi vince l'Europa League, già che abbiamo fatto tutto il tabellone, manco Obama per la NCAA. Il Liverpool, dai, diciamo il Liverpool dopo la partita di ieri. Difficile. Dico che la Juve comunque i punti fondamentali non li ha persi con Siviglia, ma secondo me con i due punti con le partite con il Mönchengladbach. Credo da juventino che quella la svolta, insomma, del girone di tempo. Ma io resto convinto che il peccato originale sia stato quello di Siviglia. Pierluigi, Giovanni. Beh, sì, Siviglia sicuramente, i due punti persi in casa, certo, poi alla fine tutto quello che la Juve non è riuscita a prendere ha pesato, però insomma credo che viste le condizioni con le quali la Juve si era presentata a Siviglia, insomma francamente quello rimanga il peccato originale. E beh, sul resto insomma... Mi diventa difficile, no, siamo nell'ambito dei totali pronostici, però io certo. Riesco... Mi diventa difficile capire come a Simeone possa riuscire l'ennesimo miracolo, cioè quello di eliminare il Bayern Monaco. È riuscito tutto anche due anni fa, quasi tutto. La distanza, la distanza tecnica e di talento è enorme, ma era enorme pure quella fra Barcellona e Atletico Madrid. La distanza come squadra non c'è, secondo me. Io attenzione perché il Bayern Monaco è molto fisico, sì, però molto a voi è piaciuto tanto nei 180 minuti contro il Benfica e il Benfica è nettamente inferiore all'Atletico Madrid anche per capacità di stare a questi livelli. A me no, però sai perfettamente che per arrivare con la Juve fondo, non è piaciuto nella partita di ritorno, un turno di grande sofferenza lo devi passare per forza, quasi come una legge non scritta. Sì, il Bayern Monaco ne ha passati due di grande sofferenza, il che secondo me segnala che evidentemente non è così dominante. Poi è evidente che oggi tu guardi il quartetto, il Bayern rimane la grande favorita, almeno pensando da dove partivi. Sulla Juve, io non so Pier se sei d'accordo, io ho questa impressione che la Juve oggi pensa che avrebbe potuto vincere la Coppa, a novembre-dicembre questo pensiero non ce l'aveva. Pensava che questa fosse una stagione di transizione, di ricostruzione in Europa, e quindi quei punti persi col Borussia a Siviglia facessero parte di una stagione in cui in fondo andare a Milano poteva essere un sogno ma non era un progetto. Sono d'accordissimo. A ripensarci oggi l'avrebbero affrontata con una testa diversa. Perché nel frattempo l'unica squadra che è realmente dominante in Europa quando sta bene, cioè il Barcellona, si è sbagliata, e le altre hanno dimostrato, il Bayern, che qualche elemento di fragilità ce l'hanno, così dominante. E poi, poi c'è anche la la casualità, cioè, però c'è quello che è successo, c'è il componente stella contro il Bayern. Poi, insomma, nonostante il secondo posto del girone, la Juve era a un minuto dalla qualificazione, quindi dai, inutile adesso mettiamo il dito nella piaga. Sono d'accordo con te, sono d'accordo sul fatto che a novembre e dicembre la Juve non sentisse quel tipo di situazione come così probabile, mentre adesso probabilmente adesso penso sinceramente che i valori espressi dalla Juve in queste ultime due stagioni, con la finale dello scorso anno e con un'eliminazione a testa altissima quest'anno, facciano venire ancora più voglia di ripartire l'anno prossimo. Allora, poi voglio dire, se anche la Juve fosse fra le prime quattro avrebbe il 25% di possibilità di vincere, cioè la Champions è una maratona, è un miraggio lontanissimo. Turno per turno e giorno per giorno. Abbiamo due minuti e mezzo per farci spiegare invece a Marco Berinazzo la situazione del Milan, perché sull'Inter abbiamo fatto luce. Al Milan che cosa sta succedendo? Guarda, mi basta molto meno, perché rispetto alla trattativa Mister B qui abbiamo una situazione molto più nitida, se vogliamo, per quanto non sia ancora chiaro chi è il potenziale compratore, ma è uno che vuole il club e che offre tra i 650 e i 750 milioni. Berlusconi credo non sia stato mai così tentato, e devo dire che anche la scelta di Brocchi nel voler quindi cambiare allenatore ma senza contrattualizzare uno di peso che poi avrebbe pregiudicato, ipotecato le scelte future, si può leggere in quest'ottica. Naturalmente parliamo di Silvio Berlusconi e del suo rapporto con Milan, e quindi parliamo di qualcosa che entra... Chiariamo, adesso sul piatto c'è il pacchetto di maggioranza. Adesso c'è la vendita del club. La vendita del club, sì. La vendita del club, e non c'è quella situazione complessa come c'era con Mr. B, per cui bisognava mettere insieme una cordata che fosse gradita al governo di Pechino e che accettasse quel percorso a ostacoli delineato da Berlusconi per non cedere immediatamente la maggioranza, ma cedere in un secondo momento attraverso la quotazione, cosa che ha, voglio dire, mese dopo mese fatto squagliare questa ipotesi di trattativa, pur rimanendo Mr. B il più gradito a Berlusconi, perché gli garantiva la presidenza e il pieno comando sulle operazioni sportive, che poi era il giocattolo che voleva ancora Berlusconi avere in questi anni. In questo caso parliamo di una cosa molto più semplice, per quanto molto più drastica, cioè la vendita del club con una certa offerta. Se si troverà la quadra, il club sarà ceduto, altrimenti no. Vicino alla quadra? Devo dire che si attendeva una novità importante già subito dopo Pasqua. Non sono arrivato, ci sono stati comunicati, il che mi lascia pensare che siano sorte ovviamente delle complicazioni che sono all'ordine del giorno, ed è chiaro che è una trattativa che nel vivo, in cui si dovrà dare poi come dire, l'esclusiva, la due diligence, insomma, quei processi che sono normali in questi, casi. E però c'è grande interesse, c'è grande interesse da entrambe le parti e Berlusconi ci sta pensando tantissimo. Diciamo che la formula è che il dossier non è ancora nelle mani di Berlusconi. E quindi se lui manterrà l'idea di vendere la maggioranza del Milan è una cosa che ha gambe. Altrimenti ritorniamo indietro di un anno al 2 maggio del 2015 e da lì ripartiamo. Le gambe erano molto più corte come le bugie. Ciao Pierluigi! Ciao. Sentiamo domenica, grazie Marco Benazzo, a prestissimo con tutto questo che sta bollendo e ribollendo nel pentolone di Milano. Giovanni sta qui con me, torniamo subito dopo il GR, facciamo l'audio forum della settimana. Ciao Luigi, ciao Pierluigi, ciao a tutti e due. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 10 e mezza con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia. Naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Tutti convocati. Tutti convocati fino alle 15.30 più o meno. Giovanni Capuano sempre qui con me. Domani c'è Inter-Napoli. Domani c'è Inter-Napoli e domenica alle 12.30 Atalanta-Roma. E io credo che domenica alle 14.30 avremo molto più chiaro che cosa succede alle spalle della Juve. Sì, dico perché se, diciamo, se la Roma vuole sperare davvero nel secondo posto, deve sperare che l'Inter faccia qualcosa di importante sabato sera. Se l'Inter vuole sperare ancora nel terzo posto, deve sperare, oltre a fare ovviamente il suo, e l'Inter è obbligata a vincere 6 partite su 6, però diciamo la verità, tu prendi il calendario della Roma, anche questa Roma che comunque sta bene e si è visto anche lunedì sera, è stata sfortunata, la trasferta di Bergamo, Roma-Napoli a parte, è l'ultima salita davvero un po' impegnativa in quel calendario. Diverse quindi, cose da raccontare quindi domenica pomeriggio dalle 5. Perché pensa che poi ci sarebbe quel meraviglioso incrocio all'ultima giornata con Milan-Roma-Sassuolo-Inter, dove il Milan dovrebbe giocare per consentire all'Inter di sognare il terzo posto e magari l'Inter giocare per consentire al Milan di entrare in Europa League. Però tutto secondo me passa da sabato sera, domenica ora di pranzo. Allora, ha parlato Mancini poco fa, anzi forse sta ancora parlando, lo sentiamo subito, poi Francesco Giulio e poi Audio Forum. Beh, Higuain è un giocatore che fino ad oggi ha segnato 30 gol, quindi un gol a partita. E nessun altro giocatore in questo campionato è riuscito a fare la stessa cosa, quindi è chiaro che è un giocatore che cambia qualsiasi squadra. Allo stesso tempo comunque il Napoli è riuscito a fare un campionato straordinario fino ad oggi. E davanti ha un giocatore che sostituirà Higuain, cioè Gabbiadini, che anche se è un ragazzo giovane ha grandi qualità e sicuramente ci potrà mettere in difficoltà. Intanto c'è stata la discussione, svolta la discussione per il ricorso di Higuain contro la squalifica di 4 giornate, iniziato a mezzogiorno, finito a 1:00, non sono trapelate notizie. No, arriva tutto stasera, ovviamente non riguarda Inter-Napoli, perché meno di 2 giornate di squalifica Higuain non può prendere, vediamo, i margini per uno sconto ci sono. E chissà perché io sono convinto che se lo sconto arriverà poi si riapriranno discussioni, ad esempio su che cosa è finito nel referto di Errati, che cosa invece è rimasto fuori, però non vediamo l'ora di chiudere. Allora lì si incazzeranno i romanisti, se sì, dovessero fare lo sconto sarebbe la loro volta. Ha detto anche un'altra cosa Mancini, ha detto che segnando 7-8 gol in più oggi l'Inter avrebbe 6 punti in più, cioè sarebbe terza in lotta per il secondo posto, e mi ha fatto venire in mente una provocazione. Cioè, ad attaccanti invertiti, Cardi e Higuain, dove sarebbe oggi l'Inter e dove sarebbe il Napoli? Cosa si direbbe del gioco dell'Inter e cosa si direbbe del gioco del Napoli? Cosa si direbbe del gioco del Milan? Cosa si direbbe del gioco della Fiorentina? Cosa si direbbe del gioco di tutte le altre squadre che non hanno avuto un attaccante da 30 gol? Perché è chiaro che uno così fa la differenza e l'avrebbe fatta all'Inter come nel Carpi. Francesco, buongiorno. Sì, buon pomeriggio, grazie della convocazione. A lei. Perché io volevo fare una considerazione riguardo il discorso dei cambiamenti societari e degli investimenti. premessa che sono tifoso juventino, ma cerco di parlare per evidenze oggettive. La Juventus dal 2004 ad oggi, c'è di mezzo una retrocessione dovuta a Calciopoli, ha costruito un centro sportivo di proprietà, una scuola, ovvero sia un liceo parificato, riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione italiano, dove i ragazzi possono studiare, un centro medico, uno stadio di proprietà con negozi annessi, e dentro il 2017 costruirà un altro centro sportivo per la prima squadra con sede, ristoranti e alberghe. Quello che voglio dire è che conferma quello che voi dicevate prima. Se vengono in Italia imprenditori che non hanno una visione, un piano industriale, dove tendono a vivacchiare, a fare del trading con quello che comprano, ma non decidono di investire, quello che purtroppo già succede per i presidenti italiani, siamo sempre lì. Il calcio non... Ma la Juventus, non a caso la Juventus... Parte. È un discorso... Cioè il calcio secondo me dovrebbe funzionare come funzionano... È un discorso un po' diverso. È chiaro che quello che lei ha detto è la base dell'impero della Juventus, almeno entro i confini italiani, su cui non tramonta il sole e non si vede dove possa essere questo tramonto. I maliziosi diranno sicuramente che per la Juventus muoversi nel suo feudo è molto più semplice rispetto a un imprenditore straniero che venga a muoversi a Milano o a Roma. Sì, questo non c'è dubbio. C'è anche una diversità di fondo, che per quanto ci sia stato in mezzo Calciopoli, la Juventus nel 2004, 2005, 2006, 2007 era comunque una società che veniva già da periodi di autofinanziamento, non aveva fardelli sulle spalle. Sì. Diverso è ereditare un club con i conti comunque appesantiti da debiti, da passivi che si fanno fatica a correggere, come l'Inter nel caso di Tohir, come sarà il Milan perché sarà uguale alla situazione del Milan, ma come sono molti grandi gruppi italiani, la Roma che è stata ereditata calcistici. Di fatto da un crack finanziario. Ecco, diverso è pensare di risollevarsi in quella maniera lì, e comunque anche la Juventus, per tornare a fare calcio e vincere, oltre alla programmazione che è stata ricordata, che è assolutamente legittima, a un certo punto ha messo un assegno da 120 milioni di euro, un piano di investimenti in campagna acquisti per rinforzare la squadra, altrimenti dai due settimi posti tu non tornavi poi nel circolo virtuoso, che è quello che tiene in piedi tutti. Cioè, tu devi stare dentro l'Europa che conta, il resto sono chiacchiere, sono dai. Bellissimi discorsi. Giulio? Pronto? Dica. Ciao, innanzitutto ciao. Grazie per essere stato convocato. Vorrei solamente dire due cose. Una era riguardante alla trasmissione di ieri, dove un ragazzo ha detto che la prima squadra di Milano è stata la prima squadra a vincere due Coppe dei Campioni consecutivamente, ma evidentemente il ragazzo non sa, o forse magari ha un Alzheimer galoppante. No, non stiamo a parlare, non diciamo queste cose, sono cose di tifo. Giulio, lei dice a Milano del calcio siamo noi, e dall'altra parte dicono a Milano del calcio siamo noi. Insomma, sono battibecchi tra tifosi. Sì. Sono d'accordo con il ragazzo che diceva prima, mi dispiace anche per l'Inter, che ho paura che la Juventus è più facile che vinca la quarta stella che noi la seconda stella, finché noi non facciamo uno stadio di nostra proprietà, perché chiaramente i benefit, i profitti, compagnia bella, e il fatturato non può certamente... Stadio è una pietra fondamentale, ma non è... Non sì, è... però non va mitizzato. Esatto, nel Giovanni, senso non che va mitizzato, vi dico due numeri. È la pietra filosofale. Vi dico due numeri. La Juventus ha fatto il fatturato record l'anno scorso, 348 milioni di euro, mai così in alto nella storia. Dentro quel fatturato c'è stato il fatturato più alto dell'area stadio, 50 milioni circa. Prima di avere lo Juventus Stadium la Juve ne aveva meno della metà, quindi evidentemente è un salto importante. Poi però tu il record lo fai perché l'anno scorso la Juve ha fatto intorno ai 100 milioni di fatturato dalla UEFA, per la Champions League. L'ordine di grandezza è quello. È evidente che è importante avere uno stadio di proprietà, è fondamentale per quello che puoi pensare di costruirci intorno, ma non mitizziamo quella esatto, cosa lì, a meno che non andiamo tutti sul modello inglese. Per cui tu hai lo stadio di proprietà, 40-50 mila posti, l'abbonamento che costa meno costa 700 sterline come il Chelsea, come altri club inglesi, e allora fai fatturati da 80, 90, 100 milioni di euro. Però io non so se piace questa cosa ai tifosi. Non credo, ma hai ragione quando dici che è una pietra importante in un progetto, in un programma societario pluriennale, ma non è l'unica cosa che ti permette di diventare grande, ce ne sono molte altre e vari passaggi preliminari. Saluto e ringrazio Giampiero Timossi, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Senti, con te voglio... ascoltavo con grande interesse. Cosa dici? Hai qualcosa da aggiungere? No, credo che servano, che siano tutte componenti che vadano che devono essere unite in un solo progetto, che esatto. deve essere una parola, non una parola vuota, ma alla Juventus hanno avuto anche un elemento in più che in questo momento manca, io penso sostanzialmente al Milan, visto l'ultimo fallimento, io lo considero tale, dell'esonero di Mihajlovic, dell'arrivo di Brocchi, quella, quindi credo che per superare questo lungo periodo di fallimenti il Milan debba mettere insieme tutta una serie di componenti, comprese le idee. La Juventus ha avuto idee innovative, ha trovato l'allenatore giusto che poteva aiutare la squadra a colmare quella differenza, quel gap che c'era con le altre squadre, perché ricordiamo che Celso Conte, anche perché così aveva questo modulo, almeno sulla carta, assolutamente nuovo, il 4-2-4, che poi di fatto la Juventus non si vide mai perché arrivò Pirlo ed era indispensabile trovare una sistemazione a Pirlo. Hanno scelto un direttore sportivo, anzi un amministratore delegato adesso, come Marotta, che grande esperienza. Come sappiamo tutti, non ha una grandissima intuizione nello scovare i giocatori, ma ha grandi collaboratori come Paratici che scovano per lui i campioni, che però ha idee straordinarie, perché Marotta è un uomo di grande fantasia, l'ha dimostrata sempre, l'ha dimostrata, penso all'operazione che riportò in Italia Cassano, no? Insomma, quindi è una persona che ha grandissimo intuito, grandissime capacità, velocità mentale. Sì. Alle grandi squadre servono anche questi, sì, servono, certo, anche gli uomini. Non dimentichiamo che la Juventus è passata attraverso una fase Milan con ricambio continuo di allenatori, con investimenti sbagliati, eccetera, no, eccetera. È una situazione anche diversa. Ma no, la Juventus, scusami, è passata attraverso una fase Milan e una fase Inter, non ha cambiato mai proprietà. Però c'è una Juventus, esatto, prima, certo, e una Juventus dopo, una Juventus, quella di Cobolli, Blanc, Secco, che era sempre della stessa proprietà, ma era una società completamente diversa. Nel momento in cui gli Agnelli e gli Elkan hanno rimesso i piedi e le mani dentro la Juve, è cambiata la storia. Sì, Inter, sì, e Milan, sì, oggi pagano quello, pagano anche il fatto che sono, certo, due club appesi, non sanno quale sarà il futuro. No, ma era una storia era una storia diversa, perché ricordiamo che poi insomma si criticò molto quella gestione, ma la Juventus tornata in Serie A andò subito in Champions League. Ora quest'anno sicuramente, almeno per quanto riguarda il Milan, credo che, ma non solo per il Milan, un ritorno in Champions League sia qualcosa di assolutamente impossibile. Quindi credo che siano storie differenti, però per aggiungere qualcosa ai preziosissimi dati che davate voi prima, dicevo che servono tutte queste componenti, compresa la capacità di cambiare dirigenti quando i dirigenti non funzionano più, sì, e di trovare un allenatore che non abbia così un'idea vaga di bel gioco, che significa bel gioco, insomma, un allenatore che sappia in qualche modo anche trovare un gioco gradevole per gli spettatori e funzionale anche a un progetto ai giocatori che hai. Allora facciamo così, visto che di questo argomento ne riparleremo tra poco, perché voglio ripercorrere in tre brevi flash sonori la settimana che abbiamo appena vissuto, per questo lo chiamo Audio Forum. Facciamolo insieme a partire dalle follie di Zamparini a Palermo, dal folle Palermo di Zamparini. Oggi ho parlato ai giocatori e le ho fatto la storia di questa annata paradossale. Quando scriverò un libro sarà sicuramente l'annata più paradossale della mia carriera nel calcio, dove ho cambiato, non 25 come dite voi, perché ho cambiato, ho mandato via Iachini ed è arrivato Ballardini, doveva rimanere l'allenatore per tutto il campionato. Allora, nuovo cambio in panchina inizio settimana a Palermo, un Palermo che non credo possa evitare la caduta in Serie B, mentre è abbastanza facile capire di chi sono le responsabilità di questa probabilissima retrocessione. Giampiero. Sì, io credo che il Carlo Palermo sia un caso a parte, credo che sia un calcio sadomaso quello di Zamparini, cioè si faccia del male e faccia del male al Palermo allo stesso momento. C'è una differenza sostanziale con gli esoneri degli altri presidenti, io credo. Gli altri presidenti spesso usano l'esonero allenatore per nascondere alcune delle loro speculazioni, una squadra magari non fatta nella maniera ideale durante l'estate, qualche cessione di troppo, qualche acquisto non fatto. Zamparini è bulimico nell'esonerare allenatori, trova sicuramente un piacere folle nel cacciare un allenatore, ma lo vediamo anche, lo sentiamo anche da queste parole, poi è sicuramente anche colpito, è in difficoltà nel gestire poi la situazione che gli è scappata di mano. E credo che anche guardando il calendario delle ultime partite, il Palermo, mi dispiace per i tifosi napoletani, mi dispiace per una realtà bellissima come quella di Palermo, però in questo momento sia davvero uno dei principali candidati alla retrocessione. Non la trovi in questa in questo casino che Zamparini è riuscito a mettere in piedi a Palermo. Cioè, ma sì, ma poi abbiamo il ritorno di un allenatore che era completamente invito a quelli che erano i giocatori più importanti della squadra. Ora Zamparini ha provato a mettere una toppa dicendo che è colpa sua perché ha gestito male i rapporti, la comunicazione di quanto accaduto con la stampa. Però insomma il discorso poi è semplice. Come si fa a far allenare la squadra a un tecnico che io ho conosciuto brevemente nella sua esperienza a Genova, che aveva sentito doti di qualità e di equilibrio, però insomma l'equilibrio di Ballardini credo che in questo caos palermitano davvero possa fare poco. Allora, secondo tema è quello ovviamente rivoluzione del Milan, via Mihajlovic arriva Brocchi. Brocchi e Mihajlovic. Non ho paura, ma ho massima tranquillità, so quello che posso fare, so quello che è il mio pensiero. Con questo non vuol dire che sarò bravo al 100% e sono sicuro al 100% che il Milan vincerà 7 partite su 7, ma sicuramente il mio 110% sarà dato, come lo darà tutto il mio staff che mi ha seguito. Io mi auguro per Cristian, perché un bravo ragazzo, un bravo allenatore, l'ho sentito anche oggi, gli ho fatto i bocca al lupo, perciò speriamo che tengano duro e che arrivano in Europa e che vincono Coppa Italia. Giovanni Capuano, anche qui le logiche sfuggono. Ma guarda, a me sinceramente io dico due cose. La prima è che evidentemente l'esonero di Mihajlovic è sbagliato per tempi, modi e anche per questa idea di precarietà con cui inizia Brocchi senza il contratto, magari torna in primavera, poi si vedrà chi sarà il patron del Milan, ne abbiamo parlato prima, insomma. Mm. E quindi è sbagliato. Ma l'unica cosa non di cui secondo me non bisogna scandalizzarsi in tutta questa vicenda è che un allenatore che con il Milan, per quanto non il Milan dei grandi tempi, ma pur sempre una squadra superiore a Sassuolo, Chievo, Lazio, insomma un allenatore con questo Milan qui che fa 49 punti in 32 partite possa essere esonerato, perché insomma onestamente credo che il bilancio complessivo di Mihajlovic in queste 32 partite sia fondamentalmente negativo. E la cosa surreale è che i tifosi del Milan accolsero con sollievo il licenziamento di Allegri nel gennaio del 2014 e oggi hanno fatto le barricate per Mihajlovic. Questo lascia immaginare che cosa è passato in mezzo per i tifosi del Milan e per la loro sopportazione. Pablo sostiene che ci sono 10 punti che mancano in classifica al Milan rispetto alla rosa che ha. Io non sono di questo avviso. Ma magari non 10, ma 49 sono pochi. 49 sono pochi, ma sono grosso modo in linea con il valore della squadra. Magari però Giampiero era una questione di pelle. Berlusconi ha anche detto: mai visto nella storia il Milan giocare così male, non lo sopportava davvero più. Mi dispiace per Berlusconi, ma la colpa è sua. Ha detto anche che era un anno che pensava a Brocchi, 10 mesi fa ha preso Mihajlovic. Io sono più d'accordo con te, credo che al Milan manchino forse qualche punto, ma che tutto sommato il lavoro di Mihajlovic non sia stato così male. Però non era quello che voleva Berlusconi. E cosa voleva? Evidentemente. Berlusconi vuole ricostruire una squadra da capo, spendendo comunque meno della Juventus, che ha vinto tutto e che continuerà probabilmente a vincere ancora per qualche anno, e vuole che questa squadra vinca, torni ai vertici in Italia e che lo diventa pure. Beh, non si può fare. Anch'io vorrei un sacco di cose. Posso non dire. Si può fare, bisogna insomma indovinare le scelte. Poi ripeto, credo che il problema sia quello che già accennavamo prima. Servono idee nuove, serve fantasia, scelte precise. È lecito che Berlusconi dica non mi piace Mihajlovic, ma perché allora l'ho ingaggiato? Perché ma da anni, da anni si palleggiano gli allenatori, uno lo sceglie Berlusconi, uno lo sceglie Galliani, non sempre sono d'accordo, e Seedorf andava bene per l'uno, non andava bene per l'altro, e su Inzaghi c'era un iniziale accordo. Sono rumori di sottofondo, no? Sono rumori di sottofondo. Sono rumori di sottofondo, non c'è niente di vero poi in questa storia. Insomma, credo che invece, ecco, credo che alla fine tutti stiamo sbagliando, perché chi mette i soldi e ne ha messo ancora comunque Berlusconi, e quindi non pare che l'ultima parola spetti di lui, però credo che sia consigliato male, credo che non ci sia più fantasia nel trovare giocatori, nel costruire una squadra, nell'individuare quelle che sono le priorità. Credo anche però che davvero questo momento, come avete già spiegato bene voi prima, vi ascoltavo, il rapporto tra Berlusconi e il Milan sia il titolo di coda. Mi sembra che ormai sia una vicenda complessivamente, per quanto riguarda il grande gruppo, sì, che si sta definendo, no? Da una parte la cessione, abbiamo visto, di Premium, dall'altra questo grande costruire anche un grande gruppo di teoria sui libri, per poi, come pare, cedere anche questa parte. Era un po' quello che facevano, mi raccontava, l'ho scritto qualche tempo fa per il manifesto, mi raccontava un uomo finito molto molto ben introdotto, che Berlusconi abbia un po' intenzione di fare come facevano i vecchi contadini nel Veneto: prendevano la polenta, la spargevano in mezzo al tavolo e poi con un filo la dividevano in parti uguali. Così vuole fare probabilmente Berlusconi, messa tutta la polenta, e che polenta, della liquidità delle sue grandi imprese, penso al Milan, all'editoria, a una parte delle televisioni, poi dividerà tra i figli, che sono molti, insomma, hanno tutti giustamente pretese, dividerà questa polenta. Credo, sì, che questa sarà un po' nei prossimi mesi, questo sarà un po' nei prossimi mesi il piano sì, partita del gruppo. Grazie Gian Piero, alla prossima. Grazie a voi, grazie mille, un abbraccio. Giovanni, noi ci vediamo domenica. Avremo anche la Ci vediamo domenica 17:19. Abbiamo la Formula 1 che ci farà svegliare presto. Ma sai che secondo free practice, secondo turno di prove libere, Raikkonen davanti a tutti, soprattutto davanti a Vettel, 1:36.896, Vettel 1:37.005, e soprattutto davanti alle due Mercedes di Rosberg e di Hamilton. Guai a deludersi, però. Complice il fatto che Hamilton perde 5 posizioni in griglia, e capiremo domani da dove parte. Pensa che potremmo domenica essere qui con Rosberg in fuga. Mi sembra in altre faccende affaccendato, ragazzo, in questo periodo. Grazie Giovanni Capuano. Grazie. Ciao, a domenica. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Federico Bini in redazione. Domenica dalle 17 alle 19, tutti convocati con Giovanni Capuano e tutta la banda. Buon pomeriggio a tutti.